listen to laughter. Red nose, never ever saw you play the fool. Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti Noise Machine. Con voi e con loro ascolteremo sei brani del CD The Jumping Clown, come ad esempio il primo, titolo The Jumping Clown. La title track. La vostra esperienza in studio di registrazione, quali le idee musicali che hanno poi realizzato e dato vita a questo vostro disco. So che c'è stato anche un lavoro a distanza, diciamo, ecco. Sì, per il fatto che viviamo abbastanza distanti, ecco. Uno in Liguria, uno a Novara, uno a Pavia e io a Milano, abbiamo sfruttato internet tantissimo per fare questo primo disco. Ovviamente non è che non ci siamo mai visti, però è vero, internet è una figata, si può dire? Vabbè. Sì. Ormai. Siamo al limite. E è una, veramente una bella cosa, perché ti dà, se uno poi lo sa sfruttare bene, ti dà la possibilità di fare un lavoro creativo al 100% tramite la rete, e noi abbiamo fatto così. Se non ci fosse stato internet, il primo disco dei Noise Machine sarebbe uscito forse l'anno prossimo. Sì. Avrete dovuto fare un bel lavoro lungo, insomma, ecco. La prossima canzone per chi ci ascolta. La prossima canzone è Turn the Stone. che tra l'altro è la prima canzone che abbiamo scritto insieme, sempre con questo metodo di comunicazione internet. Però mi ricordo che tu, Guido, avevi già scritto una melodia molto bella sulla strofa, per cui io ho detto, oh, cavoli, partecipo volentieri a questo progetto. Ecco, difatti, noi ovviamente le voci, le linee melodiche li abbiamo fatti a casa mia dopo pranzo. Bicchiere di una vino, bella mangiata. È un grande cuoco, Guido Block. Studio ancora con i Noise Machine, recensioni, quali le più importanti e cosa dicono del vostro album? Ma diciamo che tante recensioni comunque apprezzano il fatto che l'album sia variegato, che è un termine che a te, Guido Block, piace tantissimo. Assai mi piace. Anche perché comunque voglio dire, si esce un attimo dal catalogare per forza un album in un genere, piuttosto che alcune recensioni proprio schifano questa cosa, perché magari si aspettavano un disco più omogeneo. Però The Gustibus, grazie alla nostra casa discografica, la Valerie Records, che hanno spedito, hanno fatto un ottimo lavoro per quello che riguarda le recensioni. Abbiamo avuto tante recensioni anche dalla Germania, che io, essendo tedesco, ho apprezzato molto, perché a loro non gliene importa niente, per non dire non gliene frega niente, veramente scrivono, tu senti che hanno ascoltato bene il disco e dicono veramente quello che è. Se c'è del buono te lo dicono, se c'è bene. E però in generale, diciamo, sui 90% apprezzavano. Prossimo track è Higher and Higher, un pezzo molto anni 80, per così dire, mm-hmm. Perciò si inserisce bene in questo viaggio musicale. E lo dedichiamo al nostro batterista Roberto Gualdi, che lo apprezza particolarmente. sappiamo. Noi torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con i Noise Machine. Voi restate sempre su Radio RCS.